Italia in controluce, la politica nel tunnel. Siamo veramente nel tunnel ancora e da questo tunnel non ne usciamo, per cui anche la prossima settimana, temo, Italia in controluce parlerà di politica e delle questioni legate al nuovo governo. Il capo dello Stato, lo sapete, Napolitano, ha di fatto congelato il preincarico al leader del Partito Democratico Bersani. Non ci sono le condizioni al momento per un suo mandato pieno perché, come diceva ieri Bersani, troppe condizioni poste dal PDL, dal Movimento 5 Stelle, ma anche da altri partiti, non permettono, secondo lui, un governo di vero cambiamento. E allora, piuttosto di fare degli inciucci con Berlusconi, Bersani avrebbe preferito passare la palla a Napolitano, che da oggi ha iniziato le consultazioni con tutte le forze politiche. E sono passate soltanto poche ore e arrivano due novità importanti. Da una parte, Berlusconi rilancia le larghe intese e dice che può anche andare bene con Bersani premier. E poi l'ultima notizia, che forse è quella che potrebbe sbloccare anche questa giornata di consultazioni, viene dal Movimento 5 Stelle. Il fatto che in questo momento c'è in corso un'assemblea che non è un'assemblea plenaria, ma è un'assemblea di alcuni, di una parte dei parlamentari del 5 Stelle, che fanno trappelare che si discute di un governo pseudotecnico. Pseudotecnico significa dunque di un governo probabilmente è un governo formato da tecnici ma anche da politici, facciamo non so dei nomi, un governo tipo Rodotà, un governo tipo Zagabeschi, mentre invece i nomi che circolano per un governo di tipo istituzionale, quella che Bersani ha chiamato l'ipotesi B, il piano B, sono quelli che appaiono anche tutti i giorni sui giornali, dall'attuale ministro dell'interno Cancellieri, il presidente della Corte Costituzionale Gallo, il direttore generale di Banca Italia Saccomanni. E voi che cosa ne pensate? Un governo pseudotecnico, come dice il Movimento 5 Stelle, vi potrebbe andar bene? 349-238-6666, subito con Vincenzo Miglietta, che ha seguito la prima parte di queste consultazioni. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Daniele, la mattinata al Quirinale ci ha consegnato quindi la posizione espressa da Berlusconi e Maroni, ovvero siamo ancora disponibili ad un governo di coalizione anche a guida Bersani, hanno detto Berlusconi e Maroni, un governo però che sia politico e non tecnico, una grande coalizione Partito Democratico, Popolo della Libertà, Lega e Scelta Civica, questa la posizione dell'ex maggioranza, dell'attuale centrodestra. Quindi Berlusconi ribadisce quanto detto anche la scorsa settimana nel primo giro di consultazioni, questa è la posizione del Popolo della Libertà, quindi un governo che nelle intenzioni del Cavaliere dovrebbe traghettare il Paese forse a delle prossime elezioni, ma non prima di un anno, e quindi mettere mano alle urgenze, soprattutto Berlusconi ha ricordato, economiche, e non tanto quindi la legge elettorale, piuttosto le urgenze economiche, quindi il lavoro prima di tutto. Anche Maroni, che fino a poco tempo fa non era tanto per un governo di larghe intese, ha ribadito questa opzione. L'alternativa, lo ha detto in questo caso proprio il Presidente della Regione Lombardia, sarebbe solamente quella di tornare alle urne. Ricordo brevemente che nel pomeriggio poi saranno al Quirinale le altre forze politiche, Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà e Partito Democratico, e vedremo, Daniele, quindi come si concluderà la giornata politica al Quirinale. Ecco, la giornata si conclude da quello che si capisce, con una dichiarazione finale di Napolitano, oppure Napolitano si prende qualche ora, qualche giorno di tempo? Ecco, in questo caso, da quello che ho capito questa mattina frequentando il Quirinale, Napolitano dovrebbe prendere qualche ora di tempo, visto anche l'impellenza comunque della Pasqua, per evitare quindi di prendere decisioni affrettate, soprattutto in virtù di questa apertura di Berlusconi e Maroni ad un governo di coalizione. Napolitano questa volta non vuole sbagliare, non vuole quindi forzare la mano, e probabilmente probabilmente si prenderebbe il weekend per poi martedì accelerare proprio su questa crisi di governo. Bene, allora intanto arrivano i vostri sms, come sempre tantissimi, 349-238-6666. Gildo Crippa dice: sono iscritto al PD, sia al governo pseudotecnico tutto, ma non con Berlusconi. Governo a guida Bonino Giannino, dice Balduino. E Roberto si chiede: cos'è un governo pseudotecnico? Cioè un governo. Innanzitutto dobbiamo dire che c'è stato un presidente, e c'è ancora un presidente preincaricato, che è un po' una formula un po' strana, ma così è oggi, Bersani, che è stato congelato. Già un preincarico è un qualcosa di un po' particolare. Il congelamento di un presidente preincaricato è qualcosa di ancora più bizzarro, ma così vanno le cose in Italia. In realtà la sostanza è che il Movimento 5 Stelle non voterebbe mai Bersani, o non voterebbe mai un uomo indicato direttamente dal Partito Democratico. Ma se il PD lasciasse filtrare dei nomi di tecnici, veri tecnici, tipo appunto dicevo Rodotà piuttosto che Zagabeschi ed altri, ce ne sono molti in grado di fare, sicuramente Rodotà, di fare molto bene il suo mestiere, cioè di fare bene il Presidente del Consiglio, ecco che potrebbe spuntare questo governo pseudotecnico. All'inizio che spero in un governo PD 5 Stelle senza Bersani, ma con figure pseudotecniche, un altro ascoltatore. Bene ma veloci, Grillo e PD. Un altro dice: governo politico e fuori Grillo, così impara un po' di democrazia e un po' di umiltà. Un'altra ascoltatrice, Luisa, ci chiede se è tecnicamente possibile legiferare senza governo, come dice Grillo. Sì, ovviamente si può fare, ma mancherebbe una guida politica, e in quel caso anche una guida tecnica, e quindi come si fa? Cancellieri secondo me farebbe benissimo, dice Matera a Treviso. Quanto tempo perso in campanilismi, dimostriamo al mondo intero la nostra immaturità istituzionale e il poco senso civico, scrive Guido da Bergamo. Maria Rosaria dice: Berlusconi che si è impegnato con i suoi elettori a fermare i comunisti, se governasse con loro li tradirebbe. Io, fiera elettrice del PD, dice Maria Rosaria, dico mai con Berlusconi. 349-238-6666. Ma Elisabetta Fiorito, in questo momento i parlamentari, alcuni parlamentari del 5 Stelle sono radunati, è da lì che è venuta fuori questa idea del governo pseudotecnico. Allora, si sa che oggi, stamattina, Beppe Grillo ha telefonato, c'è stata una telefonata tra Napolitano e Grillo per capire che cosa bisogna fare, quali sono le posizioni del Movimento 5 Stelle. Poi a un certo punto è venuto fuori che in filo diretto con Grillo, una riunione del Movimento 5 Stelle parlamentare alla Camera, insieme a Beppe Grillo si è avuta questa apertura ad un governo di pseudotecnici. Già ieri c'erano stati un po' dei rumors in questa famosa riunione dei parlamentari qui a Montecitorio con Roberta Lombardi, che alcuni sarebbero poi comunque in difficoltà a non votare anche un governo con Bersani, ma allora la via d'uscita per aiutare praticamente il movimento a non farsi attaccare, a non dire che non vogliono governare, che protestano solo, e diciamo così salvare la faccia, si potrebbe sintetizzare così, sarebbe quello di un governo del presidente, che poi sarebbe un altro governo tecnico però con altri nomi. Oltretutto Grillo oggi se ne esce con un'uscita molto importante, perché è un'uscita di politica economica. Dice: le piccole e medie imprese sono senza armi, bisogna abolire l'IRAP con i tagli dei costi della politica. Era quanto ci ha detto detto la scorsa settimana anche Luigi Di Maio, che bisogna aiutare le piccole e medie imprese con i risparmi che si fanno proprio sullo Stato. Quindi vediamo come adesso il movimento si sta allargando dalla protesta alla proposta, almeno speriamo anche per gli italiani, Daniele. Grillo, grazie. Grillo è stato votato per fare quello che sta facendo, punto, dice Andrea al 349-238-6666. Occorre un governo politico serio, si deve provare, la politica seria esiste, basta cercarla, scrive un altro ascoltatore. Rodotà, spazio ai giovani come sempre in Italia, un presidente del Consiglio di 80 anni, come vice mettiamo Andreotti, dice Piero. E dove erano PD e PDL nel 2006 quando venne il referendum per il maggioritario? Dove erano? Dice Alessandro, credo, da Senigallia. Tutti in pensione a 5.000 euro al mese, un tecnico pratico. E un altro ascoltatore, Alberto da Treviso, dice: e se tornasse in gioco Renzi? Tutti, ce ne sono almeno due o tre che chiamano in causa Renzi. In carico a Grillo, un'Italia che cambia per sempre, un altro ascoltatore. Governo pseudotecnico con 5 stelle per legge elettorale, revisione IMU e sblocco esodati. Poi il voto, dice Walter. Se il PD si allea con Berlusconi è morto, dice Giovanni, credo, da Pescara, e io sono abbastanza d'accordo. Perché parlate di apertura del PDL? Era il PD a non volerlo, scrive Roberto da Roma. La cancelliera, un premier perfetto, Donatella da Genova sarebbe bellissimo con Rodotà, e così via. Tantissimi sms, buona Pasqua a tutti. Vi ricordo, quando andate su internet avete varie possibilità per rintracciarci. Italia Incontro Luce sta su Facebook, ha una pagina, un gruppo, a Twitter, e poi naturalmente sul nostro sito radio24.it per riascoltare queste e tutte le altre trasmissioni. Buona Pasqua ancora da Daniele Biacchetti. Grazie.